Diciamo che gruppi autoctoni in senso marocchino, in senso stretto, noi abbiamo soprattutto Salafia al-Jihadia, che è uno dei gruppi che probabilmente è accusato di essere tra gli autori dell'attentato di Casablanca lo scorso anno. Si nota poi un'espansione del gruppo salafita per la predicazione e il combattimento, il cosiddetto Dawah al-Jihad, che è un gruppo nato originariamente in Algeria, ma che sul finire degli anni 90 si è caratterizzato come fronte come gruppo transnazionale, quindi ha esteso la sua influenza soprattutto nelle comunità magrebine immigrate in Europa, e quindi ha stabilito poi contatti anche con la realtà appunto tunisine e marocchine, ma soprattutto in Marocco, ed appare il gruppo più organizzato, più collaudato dal punto di vista anche dell'azione militare, perché appunto nasce da una costola del Gia algerino e quindi è ben, come dire, addestrato e anche ha leader che sono capaci di pensare a obiettivi politici, sono a conoscenza delle dinamiche della società e delle dinamiche delle politiche europee. Questi gruppi nascono in realtà sull'onda lunga del fondamentalismo islamico, che possiamo chiamare appunto di matrice salafita. Sono gruppi che condividono ideologie comuni con altri che stanno in altre parti del mondo, voglio dire, per esempio il legame che possono avere questi gruppi con Al-Qaeda è di condivisione ideologica. Ormai Al-Qaeda, più che una cupola, è un'organizzazione centralizzata, è una sorta di network, di rete, che ha una serie di gruppi locali che non hanno nemmeno bisogno di coordinarsi tra loro, tanto è condivisa l'ideologia comune. E quindi il problema è che questi gruppi sono sorti nel tempo per la nascita di un'ideologia comune, che per mediaticamente chiamiamo jihadista, che indica la necessità di combattere il nemico empio interno ed esterno, che sia quindi un governante filo occidentale o occidentale stesso, proprio per affermare una rivisitazione in senso politico dell'Islam, e che porti alla costituzione del cosiddetto neocalifato, che è il progetto chiave appunto di Osama Bin Laden. Per quanto riguarda il discorso di Madrid, sappiamo che in questo momento insomma sono stati arrestati sono ricercati 5 marocchini, quindi si presuppone che facciano parte di questa sorta di rete magrebina. E in passato questi gruppi hanno operato anche a Casablanca, ripeto, tra l'altro militanti di questi gruppi hanno combattuto in Afghanistan sia nella prima fase, dopo essere nella jihad antisovietico, perlomeno più diciamo maturi, e poi successivamente sono affluiti tra il 96 e il 2001 in Afghanistan, dopo che in quel paese si era stabilito appunto Bin Laden, e quindi i legami internazionali insomma sono forti, sono radicati. La novità forse è la capacità di penetrazione che questi elementi hanno negli ambienti a cosiddetta diaspora islamica dell'immigrazione in Europa, essendo soprattutto Francia, Spagna e Italia paesi che hanno una forte comunità marocchina, è per loro abbastanza facile trovare un bacino di reclutamento all'interno di queste comunità, quindi il tentativo è quello di infiltrarsi e di arruolare in nome di appunto questa concezione del jihad, che è la loro, come dire, Weltanschauung, la loro visione del mondo.